vita nei campi. Settimanale per gli agricoltori del Friuli Venezia Giulia. Domenica 3 febbraio, il sole in regione è sorto alle 7.28 e tramonterà alle 17.15. Domani ci sarà luna nuova e siete all'ascolto di Vita nei Campi. Buongiorno da Armando Mucchino e Francesca Terranova. Adattare le varie orticole all'ambiente regionale tenendo d'occhio la produzione ma anche la sostenibilità. Da 18 anni l'ERSA, l'ente che si occupa dello sviluppo dell'agricoltura in Friuli Venezia Giulia, segue una serie di sperimentazioni sul campo per affinare le migliori orticole per il nostro territorio. Oggi nel servizio di apertura le ultime novità per la campagna primavera-estate 2019, a seguire la prima di una serie di puntate per spiegare le virtù dell'agricoltura biologica in questi giorni al centro di ciclici attacchi di chi non la vede di buon occhio. Andremo a seguire la quarta puntata dell'avventura dell'orto sociale del nostro Stefano Montello, una scheda sui bucaneve, fiori che sfidano il freddo per mostrarsi nella natura invernale, le considerazioni e avvertenza sui nuovi cibi che si affacciano sulle nostre mense e un contributo sulle sperimentate palacinche nel variegato mondo delle crepe. Andamento dei mercati, previsioni del tempo con una nota di climatologia locale e il proverbio della settimana chiudono la puntata. Per il 18° anno consecutivo l'ERSA ha condotto in alcune aziende private della regione una serie di prove sperimentali su orticole a ciclo primaverile ed estivo. Quali i risultati, ma soprattutto il perché di questa attività, lo chiediamo a Costantino Cattivello, tecnico ERSA. Un'attività di supporto alle aziende è fondamentale e una sperimentazione che dia agli operatori delle soluzioni, delle indicazioni per la stagione che viene avanti è fondamentale. C'è una mezza dozzina di verdure prese in considerazione. La patata, vediamola, è una delle più importanti. La maggiore novità è l'introduzione da qualche anno a questa parte delle varietà resistenti o tolleranti alla peronospora, che sapete essere uno dei funghi più pericolosi. Sono varietà che possono essere coltivate sostanzialmente eliminando quasi del tutto i trattamenti che si fanno contro questo fungo. Zucchina. Qui l'obiettivo è trovare dei materiali che resistano alle virosi, che sono malattie trasmesse in genere dagli afidi e che dal punto di vista commerciale rispondano ai canoni del mercato. Grandi novità per l'asparago bianco. Qui era la patria dell'asparago bianco. Negli ultimi anni notiamo che la quota occupata dall'asparago bianco viene pian piano erosa dai tipi verdi e, novità degli ultimissimi anni, si stanno affacciando anche le varietà violette. Inizieremo quest'anno la raccolta in un campo varietale nella pianura friulana. Le prime indicazioni ci hanno permesso di evidenziare le diverse precocità sui materiali che abbiamo in prova e anche la maggiore o minore rusticità, che significa perdita o meno di zampe nel corso della coltivazione. Sotto la vostra lente anche fagiolino un anno e il porta innesto per il pomodoro. Ma inizierei con il porta innesto per i pomodori. Permette il porta innesto di risolvere in maniera, diciamo, verde uno dei problemi più grossi che affligge molte orticole, cioè i problemi parassitari dell'apparato radicale. Si tratta sostanzialmente di replicare quello che si fa ad esempio sulla vite, ma su piante erbacee. Si innestano le varietà che si preferiscono su un piede resistente e così non serve effettuare trattamenti contro questi parassiti. Abbiamo individuato dei materiali che permettono un aumento significativo della produzione e anche buon mantenimento dei livelli qualitativi. Chiaramente l'aspetto, diciamo, meno simpatico è che le piante in estate costano di più rispetto alle piante normali, ma come dicevo permettono una maggiore produzione. Fagiolini. Sia il tipo Bobi, cioè il cilindrico, che il piatto rappresentano una delle culture che sta prendendo piede sempre più nelle nostre aziende, anche perché è un prodotto che si vende molto bene nelle cosiddette filiere corte, cioè quei materiali che vengono direttamente venduti in azienda o nei mercatini locali. Abbiamo individuato dei materiali resistenti, molto produttivi e anche affidabili, perché è una prova che abbiamo fatto in due località della regione, in due diverse epoche di semina, proprio per vedere nelle condizioni di elevate temperature, che sono le situazioni più critiche, come rispondeva la pianta. Quanti sono gli orticoltori e quali le superfici interessate nella nostra regione? Parliamo di circa 450 aziende e la superficie complessiva si supera di poco il migliaio di ettari. E per avere in mano queste novità dove possono rivolgersi? O direttamente all'ERSA Pozzolo del Friuli oppure sul sito dell'ERSA www.ersa.fvg.it. Ciclicamente teoria e prassi del biologico sono al centro di critiche non sempre troppo documentate e ciclicamente Cristina Micheloni anche ai nostri microfoni ne prende le difese. In effetti il tiro al biologico è divenuto sport nazionale, ma io vorrei in realtà rivolgermi a tutte le altre persone, la maggioranza di persone che invece vuole capire, vuole comprendere, cittadini, agricoltori, amministratori, politici, nelle cui orecchie magari si è impigliato qualche brandello di trasmissione televisiva o qualche titolo roboante sui quotidiani. Allora, per affrontare però con serietà questi argomenti c'è bisogno di dati, c'è bisogno di calma e di passare un po' più di tempo, quindi sarò un po' più noiosa di quanto non lo sia abitualmente, ma comincerò a parlare di biologico e cambiamento climatico, ovvero qual è l'impatto dell'agricoltura biologica sulle emissioni carboniche che sono la base della causa principale del cambiamento climatico. Allora, l'agricoltura biologica vede come suo perno la fertilità del suolo. La fertilità del suolo si basa fondamentalmente sulla sostanza organica, che è composta essenzialmente di carbonio, ovvero per riuscire ad avere un terreno fertile io devo immagazzinare nel terreno la più grande quantità possibile di carbonio. Se io lo immagazzino nel terreno evidentemente non mi va in atmosfera e non mi comporta tutti gli effetti deleteri che ne conseguono. Quindi, a partire dall'effetto serra. A partire dall'effetto serra. Quindi il bio invece fa esattamente il contrario, porta nel terreno la maggior parte di carbonio possibile sotto forma di sostanza organica, di humus. E come lo fa? Lo fa, anche per questo spiega perché parliamo così spesso, di sovesci, di rotazioni, di alternative all'aratura e tutte quelle pratiche, di ermimenti permanenti nei frutteti, nei vigneti, tutte quelle pratiche che appunto tengono il carbonio nella terra invece che nell'atmosfera. Chiaramente gli effetti sul terreno di queste pratiche non si vedono in un anno, non si vedono in tre anni, si vedono nel lungo periodo, però anche i cambiamenti climatici sono questioni che sono diventate un problema con tanti anni di pratiche sbagliate e si possono affrontare solo in una prospettiva di lungo periodo. Numeri, se noi guardiamo le pubblicazioni del Rodale Center negli Stati Uniti, 40 anni di gestione in bio o 50 anni di gestione in bio del FIBL in Svizzera, ci sono tutte le pubblicazioni che ci documentano quanta sostanza organica si è immagazzinata col metodo biologico. Quarta puntata oggi sull'esperienza dell'orto sociale del nostro Stefano Montello, che ci spiega perché si tratti di un'avventura democratica. Avevo a mio servizio un esercito inverosimile, con l'omone mimetica, lo smilzo, l'affamato, 13 decimi, Guglielmo Lacere e tutti gli altri, ed io ero un condottiero un po' patetico, che poteva aspirare al massimo per loro, non certo a una vittoria gloriosa, ma neppure mi rassegnavo a una sconfitta. Insomma, accontentarsi di un buon pareggio fuori casa era già buono, perché quelli così trovano sempre del pubblico ostile sugli spalti, ovunque vadano. Con quell'esercito lì avrei dovuto costituire un'azienda agricola e produrre del reddito, sfatare tanti luoghi comuni, certificare la buona volontà della società nei confronti di questi progetti di inclusione o soggetti fragili, allentare il senso di colpa della società nei confronti dei suddetti soggetti fragili, coinvolgere il territorio, sorvegliare sulla buona salute degli utenti, assicurarmi che non ricadessero in abusi di alcol o stupefacenti, ridare loro un sorriso. Non è una questione di fare miracoli, è semplicemente una questione di democrazia. La democrazia è un passaggio stretto, una lingua di terra che va sempre difesa. Se non crei un presidio e lo difendi strenuamente, l'esercito nemico può dilagare sulla tua terra. La democrazia è un passaggio stretto e il presidio siamo noi, i soggetti fragili, come Leonida, a sorvegliare quei 15 metri di sentiero tra il monte Eta e il mare, per impedire il dilagare di Serse e del suo esercito. 300 opliti spartani contro i 4 milioni, 1200 navi e 80.000 cavalli citati da Erodoto. Boh, forse anche meno, stando ai fatti. Anche noi un po' meno, una quindicina, stando sempre ai fatti. Gli spartani se ne fregavano della democrazia. Forse neppure sapevano bene cosa fosse, ma erano lì a creare un presidio. In questo sono simili a noi. Presidio, che bella parola. Significa custodire, proteggere, ma anche stare davanti, sedere davanti. Da qui presiedere, preside e presidente e molte altre. Che paradosso invitante. Noi, esiliati qua giù, in questa fattoria sociale al limitare della laguna, siamo un presidio, custodiamo e proteggiamo gli stessi che qui ci hanno mandato. Ma non è buffo, Noi, gli sfigati, stiamo seduti davanti. Noi il nemico lo vediamo prima, e poiché stiamo seduti davanti, lo prevediamo prima. Se è, com'è, una questione di democrazia, lo è a enunciati rovesciati. Non sono coloro che ci hanno mandati qui, i veri democratici, ma siamo noi che da qui proteggiamo le loro vite. Senza di noi la loro democrazia sarebbe in pericolo. Su questo bisogna essere tassativi. Democrazia è chi la fa, chi la crea, chi la produce, chi la inventa e sperimenta sempre nuove forme. Non è certo un monolite la democrazia, ma un orbettino. E si nasconde, si mimetizza e a volte va in letargo e devi andartela a cercare. Si rintana e la devi stanare. Si nasconde e la devi sorprendere. Sfida la neve pur di essere tra i primi fiori della stagione è il bucaneve che Antonino Danelutto oggi ci compendia per caratteristiche e proprietà. Uno dei fiori che annunciano precocemente l'avvicinarsi della primavera è senz'altro il bucaneve, detto anche fior di neve. Spesso non attende nemmeno il completo scioglimento delle nevi che già trova la forza di venire alla luce con il bocciolo ancora intirizzito e con le due foglioline appena spuntate e ravvicinate quasi a difendersi dal freddo a tratti ancora pungente. Il bucaneve è una pianta erbacea perenne, il cui nome scientifico è Galanthus nivalis, che significa letteralmente fiore di latte delle nevi, in friulano cincigot o rose dal modrac, ma anche campanellis. È alto mediamente 10-15 cm, dal suo bulbo ovale hanno origine lo scapo fiorale e due foglie di colore verde glauco, protette alla base da una tunica membranacea, lunghe quasi quanto lo scapo, lineari, un po' scanalate, con una evidente venatura centrale chiara e con l'apice arrotondato. Il fiore, solitario e pendulo, presenta tre tepali esterni candidi e tre interni molto più brevi, con una macchia verde a forma di V rovesciato. Il frutto è una capsula ovoide contenente semi provvisti strategicamente di una piccola appendice che le formiche mangiano volentieri, favorendo così la disseminazione. Cresce in quasi tutto il nostro territorio regionale, di preferenza nei boschi di latifoglie, nei prati, nei pascoli, fra i cespugli, su suoli piuttosto umidi, ricchi e fertili. Fiorisce prevalentemente in febbraio-marzo. In questo periodo, nei prati appena liberati dalla neve, non è raro imbattersi come per incanto in una bianca distesa di bucaneve in fiore. In cucina tutta la pianta viene esclusa a causa di alcune sue sostanze piuttosto tossiche. La medicina ufficiale ritiene di rilevante importanza l'alcaloide galantamina presente nel bulbo. Questo principio attivo, oggi ottenuto anche per sintesi, è efficace nel trattamento di alcune forme di demenza, come il morbo di Alzheimer. La medicina popolare, invece, attribuiva al bulbo, che veniva impiegato non senza rischi, proprietà vomitive. Siccome il bucaneve anticipa il risveglio della natura, viene considerato simbolo di vita e di speranza, mentre il candore dei suoi fiori rappresenta la purezza, tanto che è stato associato alla festa della Candelora del 2 febbraio, giorno in cui si rinnova il rito della purificazione della Madonna. Esaurite le puntate delle chiavi della sicurezza alimentare, oggi Claudia Fontanini, responsabile dell'ufficio certificazione di qualità del Consorzio Agrario del Friuli Venezia Giulia, che ci cura la rubrica qualità e sicurezza sulle nostre tavole, ci parla del novello food. Di cosa si tratta? In un mondo globalizzato, in veloce evoluzione e con una crescente diversità etnica, anche le abitudini alimentari e i cibi si modificano. Si intende come novel food qualsiasi prodotto privo di storia di consumo significativo in Europa al 15 maggio 1997, data di entrata in vigore del primo regolamento europeo al riguardo. Un novel food può quindi essere un prodotto che è consumato al di fuori dell'Unione Europea o che è stato sviluppato di recente, o un cibo innovativo prodotto utilizzando nuove tecnologie e processi di produzione. La nostra storia è ricca di esempi di prodotti arrivati da altre parti del mondo e diventati poi tipici delle nostre abitudini alimentari. Patate, pomodori, riso, kiwi e spezie varie sono tutti originari di altri continenti. Pensiamo anche a cosa significa per il Friuli Venezia Giulia il mais, cereale originario dell'America. Per poter essere messi sul mercato, questi alimenti oggi avrebbero dovuto sottostare a un'autorizzazione che ne garantisse la sicurezza a tutela della salute dei consumatori, così come previsto dalla legge europea. L'iter per l'immissione in commercio di un novel food prevede, tra le altre fasi, una valutazione scientifica per l'accertamento della sicurezza, a cura dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare, che ha sede a Parma. Gli insetti e i loro derivati, di cui molto si parla ultimamente, si configurano come novel food se sono destinati al consumo alimentare. Alcuni Stati membri hanno già ammesso a livello nazionale la commercializzazione di qualche specie di insetto. In Italia sarà possibile solo dopo la specifica autorizzazione, in applicazione del regolamento europeo che si occupa dei nuovi alimenti. La FAO li indica come risorse da utilizzare nella lotta contro la fame nel mondo e per un'agricoltura sostenibile, e sono già comunemente mangiati in molti paesi europei. Certo però, prodotti così estranei alle nostre abitudini dovranno superare barriere culturali e psicologiche prima di avere impiego sulle nostre tavole. Insomma, se troviamo un insetto nel nostro piatto, a oggi non è ancora un novel food, ma solo uno sgradevole incidente. Si fa presto a dire palacinca, rimandando a crepe e crespelle. Oggi Roberto Zottar ci illumina su uno scrigno culinario di inaspettata ricchezza. Il 2 di febbraio religiosamente si festeggia la Madonna Candelora e laicamente è anche un momento di previsioni meteorologiche. In Francia la Chandeleur è anche una ricorrenza golosa chiamata la festa delle crepe. Tradizionalmente si accendono candele e si mangiano crepe come augurio di buona fortuna e si esprime anche un desiderio quando si volta la crepe nella padella e, come dice il proverbio francese, la prima crepe non riesce mai bene. Da noi le crepe alla marmellata sono impropriamente chiamate omelette, riproducendo la parola francese omelette, ma mentre la crepe si prepara anche con latte e farina, le omelette prevedono solo uova leggermente sbattute e poi cotte in padella con burro, dorate solo da un lato, così che l'interno rimane più soffice e si può ripiegare con più facilità, racchiudendo magari un ripieno dolce o salato. E non va confusa con l'italiana frittata, che invece va cotta su entrambi i lati. L'omelette soufflé era conosciuta a Trieste perché la ritroviamo ripetutamente in ricettari tipici anche in quelli anonimi, testimoni attendibili del costume di un tempo. Ma parlare di omelette mi permette di ricordare che dall'Ungheria ci sono arrivate anche le cugine palaxinte, note in Austria come palacinken e in tutta la Venezia Giulia con la variante palacinche. Permettetemi cursoriamente un accenno al rapporto tra le palaxinte ungheresi, le omelette e le crêpes francesi, che hanno tutte la stessa origine probabilmente nella Roma alto medievale, come riferiscono le cronache del tempo, e se la parola crêpe deriva dal latino crispus, arricciato o ondulato, la palaxinta deriva dal latino placenta, cioè frittata, focaccia schiacciata. Nelle trattorie del Carso troviamo palacinche ripiene, oltre che con la classica marmellata di albicocche, anche con noci e panna, crema e ultimamente cioccolato. Qualcuno le serve alla fiamma, un po' ubriacate con del brandy, probabilmente in omaggio alle suggestive crêpes Suzette di molto più elaborata fattura. Per realizzare le palacinche, secondo Medifast, preparate una pastella con 125 g di farina, un quarto di latte, due uova e un tuorlo, 50 g di burro fuso e fatele riposare. Riscaldate una padella e dopo aver unto con burro versate una tazzina di pastella e girate bene la padella in modo che il fondo venga coperto. Lasciate rapprendere, girate poi la crespella e cuocetela ancora un minuto. Spalmatela del ripieno prescelto, arrotolate su se stessa o piegatela in quarti e cospargetela di zucchero. Una grattugiata di limone è un segreto che dona molta freschezza. Buon appetito! E ora il microfono ad Amos D'Antoni per l'andamento dei mercati agricoli. Andamento attivo venerdì scorso nelle contrattazioni cerealicole a Camera di Commercio di Udine, dove il mais con umidità 14% è stato quotato tra 16,90 e 17,10 euro il quintale IVA esclusa, il frumento buono mercantile tra 21,20 e 21,50, l'orzo tra 21,30 e 21,80 e la soia tra 33,20 e 33,70. Rispetto ad un anno fa il prezzo del mais è aumentato di 50 centesimi, mentre la soia è diminuita di circa 3,10 euro il quintale. Scambi fiacchi con discreti affari e prezzi in discesa al mercato ortofrutticolo di Udine, dove l'insalata gentile viene pagata nella media tra 2,40 euro il chilo IVA esclusa, la lattuga trocadero tra 2,20 e 2,30, la cicoria tra 1 e 1,20, le tegoline e le zucchine tra 2,80 e 3 euro, la scarola riccia tra 2,70 e 2,80, le melanzane tonde tra 2,20 euro, i pomodori italiani in grappolo tra 2,20 e 2,40, i finocchi tra 1,60 e 2 euro, il radicchio rosso tondo tra 0,80 e 1 euro, quello di Treviso extra tra 4,40 e 4,50, i peperoni gialli e rossi tra 2,40 e 2,50, i cavoli tra 2,20 e 2,20, le spinaci tra 1,60 e 2 euro, i kiwi tra 1,70 e 2 euro, le clementine tra 0,70 e 1,20 e le arance tarocco tra 0,70 e 1,40. Infine tendenze in calo nel comparto degli avicunicoli, con i poli a terra pagati tra 0,92 e 0,94 euro al chilo, i tacchini maschi tra 1,33 e 1,35, le faraone tra 2,30 e 2,34, le anatre tra 2,35 e 2,39, i conigli oltre di 1,5 kg quotati dal CUM di Verona tra 2,34 e 2,40, le uova oltre 73 grammi a 12,70 centesimi il pezzo. E con il previsore dell'ARPA Osmer Marcellino Salvador diamo un'occhiata al meteo per la settimana entrante più un breve contributo di climatologia locale. Si è appena concluso gennaio e dati alla mano si può dire che abbia rispettato le sue caratteristiche di mese invernale, con temperature medie nella norma sulla costa e di circa un grado più basse del solito sui monti in pianura. Ricordiamo che lo scorso anno era stato invece molto mite, con 2,5 gradi oltre la norma. Va detto che la prima metà del mese è stata molto secca, con frequenti episodi di vento forte da nord in quota. In seguito, un paio di perturbazioni hanno portato la neve soprattutto sulle Alpi Giulie, mentre su Alpi e Prealpi Carniche è nevicato poco. Complessivamente le precipitazioni sono state ben inferiori alla norma e in genere pari ad un terzo del solito, anche meno in provincia di Pordenone, un po' di più invece sulle Alpi Giulie. Segnaliamo inoltre la debole nevicata del 23, che ha interessato anche pianura e costa, in una giornata in cui le temperature a mezzogiorno sono state intorno allo zero sulle zone pianeggianti. Tra venerdì e sabato un marcato fronte atlantico ha determinato una forte sciroccata, con precipitazioni molto intense sui monti e abbondanti sul resto della regione. Sui monti sono caduti tra 100 e 400 mm, mentre in pianura tra 50 e 100 mm, meno sulla costa. Le raffiche da sud in quota hanno superato i 100 km orari, più di 80 km orari di scirocco invece sulla costa, con mareggiate sulla fascia lagunare. La neve è caduta intensamente, prevalentemente a quote oltre 1700 metri e solo verso il confine col Cadore e Comelico si sono avuti accumuli considerevoli a quote attorno ai 1300 metri circa. Questa notte è nevicato a quote invece più basse. In ogni caso, in un paio di giorni, i quantitativi di precipitazione hanno già superato la norma di tutto febbraio sui monti e l'hanno eguagliato per ciò che riguarda la pianura. Passando alle previsioni, si può dire che da domani affluiranno correnti secche e stabili settentrionali, per cui avremo vari giorni di bel tempo, con gelate notturne in pianura, ma valori di temperatura massime attorno ai 10 gradi su pianura e costa. Freddo in montagna di notte, specie sulle zone innevate, ma di giorno il sole ormai piuttosto alto nel cielo renderà l'atmosfera più mite. Termina qui la puntata. Anche oggi vogliamo lasciarvi con un proverbio friulano: se altone a fevrar e varin un altro inviar, ovvero se torna al mese di febbraio ci sarà un nuovo inverno. Continua insomma il freddo. Coordinamento tecnico di Andrea Marmai, il nostro indirizzo mail è vitanecampi@rai.it. Potete trovarci su Facebook e sul sito della TGR del Friuli Venezia Giulia. Armando Mucchino, Francesca Terranova e tutta la redazione vi ringraziano e danno appuntamento a domenica prossima. Avete ascoltato? Vita nei campi. Settimanale per gli agricoltori del Friuli Venezia Giulia.